è anche che in giro di esempi di persone che sono capaci di fare questo oggi ce n'è probabilmente più di prima. Per cui io credo che da un punto di vista generale non si tratta di essere positivi o ottimisti semplicemente, si tratta di essere vitali, non si tratta di pensare positivo, si tratta di pensare vitale, si tratta di pensare che il dinamismo, il movimento, il mutamento sono degli alleati, non sono, anche quando presentano disfunzioni, problemi, lacerazioni, eccetera, eccetera. Io credo che questo sia il punto fondamentale, cioè la dimensione vitale che si nutre gesto per gesto, azione per azione, movimento per movimento nella nostra esistenza quotidiana e che parte magari da cose apparentemente piccole. Io credo ad esempio che una bussola, un'unità di misura fondamentale siano ovviamente i rapporti con i propri figli, le relazioni sentimentali, eccetera, eccetera. Se noi ci abituiamo ad avere nella nostra esistenza quotidiana tanti gesti vitali, non necessariamente buoni o non so che cosa, essere buona la vita non è la bontà, è la vita. Io credo che proprio quello che ci manca è un senso vitale, e la vita è fatta di espansione, è fatta di avanzamento, è fatta di crescita. Crescita, secondo me, oggi è la parola fondamentale. Questo è Franco Bolelli. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ciao, sono Emilio e ho perso la famiglia. Da quando ho preso i soldi di Giovanna, mia figlia, è l'inizio della fine. Vendo la mia fede nuziale, ho venduto l'oro e tutte le mie catenine. È un disastro, amici, passioni, famiglia, la casa, la mia vita distrutta da un solo tasto. Potrei dire basta, ma per oggi non posso. Fatto sta che chiudo le mie. Questa è la musica che viene da Pavia, è un gruppo di giovani rapper che con azzardo patia hanno voluto scrivere questa canzone. L'abbiamo usata anche in altre occasioni per introdurre questo argomento, dato che sta diventando veramente una piaga. Ci sono numeri che definiscono queste cifre sulla ludopatia, ci sono racconti dei baristi che hanno rinunciato alle slot machine, che con un meccanismo perverso, si chiama gioco, ma non c'è niente da ridere, basta vedere le scene piuttosto tristi e squallide che si vedono con le persone davanti alle macchinette. Dato tutto questo, si cominciano a muovere diverse cose. Ci sono già 4 regioni in Italia che hanno una legge per mettere dei paletti: la Lombardia, l'Emilia, la Toscana, la Liguria, se ricordo bene. C'è una legge, una petizione di iniziativa popolare portata avanti da oltre 300 comuni italiani, approderà quando le firme saranno raccolte in Parlamento, e c'è adesso l'iniziativa della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna. Noi abbiamo convocato, perché questa iniziativa ci è piaciuta, Luigi Odorici, amministratore delegato. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, si sa che Buongiorno. Le banche ogni tanto cercano così, annaspano per rifarsi anche un po' l'immagine, però al netto di questo, ma noi sappiamo che non è questo che vi interessa, perché poi ogni banca fa il marketing che vuole, al netto di questo la notizia è: la banca blocca i conti ai clienti malati di gioco. Andiamo a spiegare bene che cosa fate. È un'iniziativa vasta che prevede soprattutto formazione per i vostri dipendenti e un'attenzione, un alert verso chi spende i giochi, spende molti soldi sul gioco. E voi che cosa avete pensato di fare, Odorici? Ma diciamo innanzitutto che questa non è un'iniziativa di marketing, è un'iniziativa che è stata promossa qualche mese fa dalla nostra struttura di responsabilità sociale d'impresa, che si ispira ad un codice etico che detta norme comportamentali, valori e principi etici ai quali si deve ispirare l'attività quotidiana della nostra banca, e ovviamente questo codice etico focalizza anche l'attenzione sugli impatti che l'attività della banca produce nella comunità in cui opera. Il presupposto su cui si basa la nostra iniziativa è fondamentalmente legato al fatto che il gioco d'azzardo è un'attività lecita, anche se moralmente discutibile per le implicazioni negative che può avere, anche se non crea valore, ma lo distrugge nella stragrande maggioranza dei casi, mentre il gioco d'azzardo patologico è una piaga sociale come lo sono la droga, l'alcol e il fumo. Sulla base di questi presupposti, ovviamente, noi abbiamo intrapreso questa iniziativa, che ci tengo a precisare, non è sui conti correnti, perché noi non siamo certo il grande fratello che controlla tutte le situazioni. Noi abbiamo semplicemente inibito la operatività delle nostre carte di credito per qualsiasi operazione di pagamento verso esercizi o siti internet che siano classificati nella categoria del gioco d'azzardo online. Quindi per il gioco online, su questo. Per il gioco online. Ma mi scusi una domanda, Odorici. È un'azione sostanzialmente di prevenzione. Mi scusi una domanda subito per chiarire. Io non ho capito se questa cosa riguarda tutti i correntisti, quindi le carte di tutti i correntisti, quindi avete escluso questa categoria di siti dove non si può pagare con le vostre carte, o solo quelli che secondo voi sono segnalati? È operativa su tutte le carte di credito, tranne una piccola categoria di quelli che hanno un sacco di quattrini e quindi quelli di... Ma come? In che senso su tutte? Nel senso che chi ha il conto nella sua banca non può... carta di credito che venga emessa dal nostro gruppo, dalla banca del nostro gruppo, non è operativa sugli esercizi o siti internet classificati come gambling. Cioè, se vuoi fare, se vuoi giocare, gioca, però con altri sistemi. Cioè, gioca col contante, ma non giocare con la carta di credito. Cioè, esco, vado a un banco. Noi, è chiaro che noi cerchiamo di fare attività di prevenzione. Noi vendiamo una carta, questa carta non è operativa su questo sito. È un servizio che la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna non offre, decide di non offrire perché ha a cuore questo percorso. Noi crediamo che questo sia una piaga sociale, come dicevo, come lo sono droga, alcol e fumo, per cui noi cerchiamo di dare questo piccolo contributo. E questa è l'attività di prevenzione che noi cerchiamo di fare. Poi c'è anche un altro aspetto che avviene invece... sempre al codice etico, che è di tipo formativo sul nostro personale, ma che ci consente anche di mettere a fuoco i comportamenti, o così comportamenti più significativi di coloro che hanno la carta di credito, che magari derivano da uno sconfinamento o da un utilizzo immediato delle disponibilità, che ci fanno ritenere che questa possa essere un soggetto che soffre di questa patologia. Ovviamente qui si apre un tema delicatissimo di privacy. Noi, se individuiamo un soggetto che è potenzialmente a rischio, evidentemente lo convochiamo, cerchiamo di capire qual è la ragione, perché normalmente è lo sconfinamento che determina questo contatto. Se riusciamo a capire che questo soggetto soffre di questa patologia, e come fate però? Perché questo è veramente difficile. Premetto che sono d'accordo con la vostra linea, cioè la questione della privacy a me personalmente, ma lo dico anche pubblicamente, non mi interessa. Cioè, se uno si sta rovinando con la slot machine, con la ludopatia, per me la privacy è un fatto secondario. Quindi bene fate voi cercare di capire e di intervenire, ma come fate a pescare quelli che secondo voi sono interessati? Che tutto nasce soprattutto in larga misura dallo sconfinamento, cioè uno utilizza più quattrini di quelli che gli possono derivare dello stipendio. In quel momento noi lo convochiamo ed evidentemente cerchiamo di capire se questo è lo sconfinamento o comunque l'utilizzo immediato deriva da questioni che possono essere quelle ordinarie di vita quotidiana, o se invece c'è qualche aspetto che può indurre a fare ragionamenti di questo tipo. Ma mi scusi, è chiaro che se il soggetto rimane chiuso e dice sono affari miei, è chiaro che noi guardiamo solo la componente finanziaria. Ma mi chiedo, forse sbaglio io, ma non è strano che sia la banca ad occuparsi di come io spendo i miei soldi? Io in quel momento, cioè l'approccio è semplicemente un approccio in cui si dice hai incassato 1200 euro, ne hai spesi 1500, e quindi come mai, eccetera. Quindi è chiaro che ci sono dei problemi. Noi cerchiamo di capire soprattutto dalla motivazione per cui lo chiamiamo, che generalmente, ripeto, è lo sconfinamento, se questo è dovuto al fatto che questo signore ha un tenore di vita più alto di quello che si può permettere, se ci sono delle motivazioni dalle quali possiamo cogliere un aspetto. Ma magari ha un altro conto su un'altra banca che lei non sa e quindi se lo può permettere. Punto uno, questo dovrebbe farlo il fisco, la guardia di finanza, capisco, ma che sia la banca. Andiamo a giudicare, noi cerchiamo solo di aiutare qualcuno che eventualmente... Io sono perfettamente d'accordo, invece, anche se Gabardini ha dei dubbi, evidentemente lui non farà il conto corrente alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, perché spende tutto, io lo so, nelle slot machine, assolutamente, quasi sull'orlo dell'astrico. Però se avrà qualche problema in futuro, magari cambierà idea. Il buono è che gli spacciatori non accettano le carte di credito, ma comunque molto peccato. Sono già inibito da tempo. Peccato, giusto, perché altrimenti sarebbe un altro modo. Mamma mi blocca la carta di credito anche se voglio comprare un fumetto, quindi ci mancherebbe. Da quelle comunque sul nostro ma è mia mamma, però è mia mamma, non è la mia banca. Per chi non ha la mamma, ha la Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Grazie all'amministratore delegato Luigi Odorosci. Non fare una cosa troppo di amicizia, noi cerchiamo di aiutare le persone che evidentemente con le quali possiamo avere o contatto di un certo tipo. Sì, ma non, no, no, non, ma l'intento, non si preoccupi, ma non si lasci intimidire da Gabardini che ha le sue idee. Noi abbiamo capito perfettamente, anzi io sono d'accordo, anzi però a fare il conto alla banca, però io non sto in Emilia Romagna, quindi non poi lo posso però, fare. Poi però non giochiamo, voglio che l'Unicredit faccia la stessa cosa. Ah beh, io sono già sull'Unicredit, chiedo pubblicamente all'Unicredit di fare la stessa cosa. Non conta nulla, ma io credo che questo possa essere il primo passo verso... Grazie! Imparare a riciclare sin da ragazzi è l'obiettivo del comune di Santa Maria Capo a Vetere, che permette ai giovani di acquistare l'ingresso ai concerti dando in cambio materiali di riuso, dalle bottiglie di plastica alle batterie scariche, come ci racconta l'assessore all'ambiente Donato Di Rienzo. Si tratta di una iniziativa che abbiamo voluto fortemente portare avanti noi qui a Santa Maria Capo a Vetere. All'interno di questo locale, un vecchio locale in disuso del comune, dove noi reperiamo materiali che altri non usano più ma che sono in buone condizioni e quindi possono essere riusati, all'interno di questo locale, per attirare un po' di giovani e convertirli alla necessità ormai della differenziata e a fare proseliti in questo che noi chiamiamo adesso, può diventare addirittura una religione in questo momento, deve diventare una religione per tutto quello che gli strassi ambientali che ci hanno circondato. E allora all'interno di questo edificio faremo dei piccoli concerti, dei concerti in sintonia con un'associazione locale che si chiama Club 33 Giri, dove l'accesso è consentito solo a coloro che pagano il biglietto in materie prime, cioè se loro questa sera si paga 20 bottiglie di plastica vuoti, l'altra sera si pagherà 20 lattine di Coca-Cola piuttosto che di birra o piuttosto che di altro. Insomma, l'accesso a questi concerti sarà consentito solo se ci sarà un contributo da parte dei ragazzi in termini di materiali di scarto. Second chance, una seconda chance. Tutti la vorrebbero, no, nella vita, una seconda chance, anche la terza, la quarta, la quinta, ma almeno una seconda chance per esempio per chi è detenuto in carcere, bisognerebbe darla per esempio anche nel mondo del lavoro. È quello che fa con profitto Luciana Delle Donne. Intanto buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Imprenditrice, titolare, non so se il marchio Made in Carcere è anche il nome dell'azienda, se si può dire così. Sì? La cooperativa No Profit e Officina Creativa. Officina Creativa, che produce dei prodotti, soprattutto di stoffa, venduti poi su un sito, che si chiamano Made in Carcere. Lei è una persona, anche un personaggio e anche una personalità. Tra l'altro ieri è andata in onda la sua storia sulla 7, ieri sera, nel programma di Saturnino. È stata... Molto bella, emozionante, devo dire. Perché lei è una personalità, anche è stata premiata come personalità europea dell'anno 2013. Non so bene in che contest, ce lo ricordi lei? Per essermi distinta nel mondo dell'imprenditoria, sì, in modo unico, con modestia, umiltà e con risultati tangibili. Bellissima motivazione. Insomma, è una donna notevole. Intanto una piccola nota biografica. Lei, perché uno si potrebbe domandare, sì, ma impresa sociale, ma con la cooperativa, sono tutti fricchettoni. No, lei lavorava in banca, ha fatto carriera, poi a un certo punto ha cambiato rotta. Beh sì, sono un ex dirigente di banca, ho lavorato 22 anni in banca, ho creato il primo modello di banca multicanale in internet quando ancora non se ne parlava. E poi dopo 22 anni ho deciso di lasciare il mondo dell'innovazione tecnologica e dedicarmi a quello dell'innovazione sociale, lasciando la possibilità a tutti appunto di una seconda chance e di capire